agli alberi e come il vento svanirà, fa paura, si confonde dentro i vicoli tra l'incoscienza e l'umiltà, fa paura perché non sa mentire ma non fa miracoli, però il suo taglio brucerà, fa paura, non conosce muri, ostacoli, né dove il fosso salterà, fa paura perché non sa fuggire, né mai indietro ritornerà. Nel silenzio della soffio nella polvere del fondere, non sa bene il passo, non aver premura, non è un sentiero da percorrere, è solo fiato in gola che rallenta la tua corsa e non si fermerà mai. Fa paura, ride tra le nuvole e si concede la follia, nega il giura che ci crede nelle favole, ma non sopporta ipocrisia, ma paura e non si può smarrire, ma in un cuore si perderà nel silenzio della la sua pionda e non ti ferirà mai. Fa paura perché non sa tradire, fa paura e spesso fatica a salire in quota, ma dal vuoto non